Noi nel quadro della campagna We Are Gen 5, che si inserisce nel progetto Generazione 5, promosso dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, abbiamo portato avanti questo test proprio perché il progetto si occupa del superamento, dell'abbattimento degli stereotipi di genere. E abbiamo visto come, anche insomma per articoli recenti internazionali usciti negli ultimi anni, l'intelligenza artificiale ha dimostrato sì, da un lato il potenziale della tecnologia per creare nuovi modi di lavorare, nuovi approcci, ma anche nell'esacerbare le disuguaglianze e gli stereotipi esistenti, anche gli stereotipi di genere. Quindi abbiamo portato avanti un esperimento, ovvero abbiamo chiesto a due piattaforme di intelligenza artificiale della proprietà di Adobe, ovvero Adobe Firefly e Midjourney, che generano immagini a partire da delle richieste testuali. Abbiamo chiesto di generare per noi il ritratto di una bella donna e di un bell'uomo. Il test che abbiamo fatto ci dimostra che nonostante l'intelligenza artificiale possa sì apparire come uno strumento neutro, no? Tecnologicamente neutro, in realtà ha un canone piuttosto rigido per definire la bellezza femminile e quella maschile. Infatti il risultato che abbiamo ottenuto, che potete anche vedere nei contenuti che abbiamo pubblicato sul nostro sito e sui nostri social media, mostra da un lato una donna ammiccante, sempre con i capelli lunghi, poco vestita, e un uomo sempre con la barba, molto abbronzato, vestito e tendenzialmente vestito anche in maniera canonicamente curata e anche curato, estremamente curato nell'aspetto, nei capelli e nella cura della barba. Perché avete eseguito tale esperimento? Abbiamo eseguito questo esperimento proprio perché ci sono, come sappiamo, diverse dimensioni degli stereotipi e degli stereotipi di genere e uno strumento come l'intelligenza artificiale, di cui assolutamente riconosciamo, come dicevamo prima, un grande potenziale, è importante che venga gestito e reso ancora più contemporaneo proprio nel generare immagini, nel cercare di essere uno strumento rappresentativo della nostra società. Come sappiamo, i programmi di intelligenza artificiale sono realizzati o comunque seguiti da noi, dagli esseri umani, e quindi contengono in sé dei bias che sono propri delle persone. E quindi in maniera molto insidiosa l'intelligenza artificiale può mostrare dei pregiudizi che vengono introdotti attraverso le enormi quantità di dati che su questi programmi vengono generate perché sono addestrati dagli esseri umani e che per molti utenti, tra l'altro, sono intercettibili, ma comunque vengono percepite e poi interiorizzate anche dalle persone che li utilizzano. Quali sono le ripercussioni che possono avere sugli utenti o comunque sulla società? Partiamo da quello che dicevamo prima, il fatto che ci siano dei pregiudizi, no, insiti addirittura nell'intelligenza artificiale possono avere gravi ripercussioni, soprattutto quando questi pregiudizi contribuiscono all'ingiustizia sociale o alla discriminazione. Questo perché i dati, diciamo, distorti possono rafforzare e talvolta peggiorare i pregiudizi esistenti nelle società, dando luogo a disuguaglianze che rischiano di diventare sistemiche. Quindi è fondamentale, secondo noi, rimanere vigili nel rilevare e correggere i pregiudizi nei dati e nei modelli e puntare all'equità e all'imparzialità di tutti i processi decisionali basati sui dati. Quindi partendo proprio dal tipo di lavoro che viene fatto, no? Per analizzare e per generare immagini o parole attraverso l'intelligenza artificiale. Quindi sappiamo che comunque i programmi di intelligenza artificiale, come le persone che li sviluppano e li addestrano, sono tutt'altro che perfetti. Questo che si tratti di un software di apprendimento automatico che analizza immagini mediche, per esempio, o di ChatGPT che tiene, per esempio, una conversazione organica, no? Anche in questi casi si sono notati dei bias. Per esempio, nelle immagini mediche ci sono stati diversi studi che hanno visto come la rappresentazione di un corpo femminile venga percepito come un corpo più sessuato, sessuale, mentre un corpo maschile non ha questo tipo di dimensione. Quindi anche in questo tipo di immagini, di analisi, è insito il famoso pregiudizio e stereotipo di cui parlavamo prima. Come si possono correggere? Noi pensiamo che il lavoro che debba essere fatto è su due fronti. Il primo è cercare di lavorare insieme a quelle che sono le persone che curano, no? L'addestramento dell'intelligenza artificiale, perché comunque sì, si tratta di una tecnologia, ma in questo momento è una tecnologia dove alle spalle comunque ci sono persone che lavorano. Quindi inserire sicuramente un numero maggiore di donne all'interno di quelli che sono i lavoratori e le lavoratrici nel mondo dell'intelligenza artificiale e in generale delle tecnologie, dell'ambito STEM, e fare in modo che ci sia uno studio maggiore per evitare questo tipo di incongruenze, che ovviamente capiamo siano anche parte dell'inizio di un lavoro sull'intelligenza artificiale così di massa come abbiamo visto esserci negli ultimi anni. Noi tra l'altro affronteremo proprio questo tema rispetto alla domanda che mi avete appena fatto anche durante il nostro WeWork Festival, che si terrà a Milano dal 17 al 19 maggio, dove avremo un panel dedicato a questa tematica, in cui tra l'altro tra i panelist ci sarà proprio l'intelligenza artificiale che interrogheremo come un vero e proprio ospite, per capire come possiamo andare a correggere, come possiamo lavorare sia noi come organizzazioni non governative attraverso campagne di sensibilizzazione, sia quello che è in compartimento di professionisti e professioniste che lavorano in questo settore tecnologico.